ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Un libro tira l'altro di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, per la serie dei viaggi che non abbiamo potuto fare andiamo questa sera in California, di cui ci dà una descrizione approfondita, ironica, insolita, talvolta perfino esilarante, Michele Masneri nel libro Steve Jobs non abita più qui, pubblicato da Delphi, 254 pagine, 19 euro. Questo libro raccoglie le impressioni che Masneri ha ricavato da una lunga serie di viaggi e soggiorni, soprattutto nel 2016 e soprattutto a San Francisco, nell'area della Silicon Valley. La California ci viene presentata qui come una continua officina di innovazione, soprattutto sociale. L'eccellenza della ricerca universitaria, l'universo delle aziende digitali, dai colossi planetari alle più speranzose start-up, la ricerca spasmodica del successo e della ricchezza hanno permeato l'intera società californiana, rendendola qualcosa di unica con le sue caratteristiche, le sue idiosincrasie, le sue priorità, i suoi tabù, spesso del tutto particolari e tali da fare di quello stato un curioso e in certi casi un po' preoccupante laboratorio di ciò che potremmo diventare noi tutti. Allora sentiamo dalla autore se moriremo tutti californiani. Buonasera Michele Masneri. Buonasera, come va? Bene, bene. Lei è rientrato dalla California? Sì, sono a Roma. Ah, e che differenza c'è fra Roma e la California? Pochissime, la stessa energia, la stessa... Beh, no, diciamo molto diverse, anche se forse al momento meglio Roma, vista la situazione del Covid, che in California è abbastanza grave al momento. Senti, ma lei a questo proposito scriveva qualche giorno fa sul Foglio che comincia ad esserci una fuga dalla California, almeno da San Francisco. Questo sta cambiando un po' anche il panorama che lei ci ha dato in questo libro? Sì, questo è veramente, diciamo che l'idea che ci sia una fuga dalla Silicon Valley da San Francisco è abbastanza un cliché, perché siccome è un posto in realtà dove tutti vogliono stare, e ogni tanto veniva fuori regolarmente quest'idea che ci fosse un'alternativa, no, alla nuova Silicon Valley e poi una serie di città improbabili. Invece per la prima volta da qualche anno pare che ci sia proprio davvero una fuga, perché non solo il Covid, diciamo, ha colpito molto forte. Se vi ricordate all'inizio la California sembrava uno dei posti in cui si erano salvati grazie a, diciamo, un ricorso massiccio allo smart working, anche al clima, sembrava che fosse un deterrente, invece poi adesso è uno dei territori più colpiti in assoluto anche in America. E ci sono gli incendi in questi giorni che colpiscono duramente la California e tutto questo su, diciamo, su una situazione che già, insomma, era pesante, che era il costo bestiale di affitti delle case. Quindi tutto questo insieme, adesso sto sentendo molte persone, molti amici che davvero stanno cercando altri posti, tanti italiani che abitano lì che stanno tornando a vivere in Italia. Abbastanza incredibile come cosa. Senta, ma indipendentemente dal Covid, dagli incendi, cioè dalla contingenza, venendo proprio al suo libro, lei, in questo libro lei ci dà un quadro di un paese, di uno stato straordinariamente vivace, straordinariamente dinamico, straordinariamente basato sull'innovazione tecnologica, sulla voglia di far soldi, insomma un caso molto atipico. Ecco, quel modello lì che lei descrive nel libro, quella California lì, secondo lei rischia di essere più un incubo o veramente un modello per tutti noi? No, secondo me è più un modello, perché comunque, diciamo, è un insieme di posti e di valori che comunque tirano fuori un po' il meglio dalle persone. C'è un posto che dà una possibilità a tutti, che cerca appunto di trovare nuove soluzioni per il futuro, che comunque dà fiducia. È un posto dove soprattutto venendo da un paese come il nostro, l'Italia, che invece è sempre un po' zavorra sempre un po' tutti, no? Con l'idea che niente veramente sia realizzabile, soprattutto se uno è giovane e, diciamo, non ha dei così del, non viene da un certo tipo di famiglia, è destinato a non fare nulla, è destinato a stare in famiglia fino a 30 anni, lì invece è tutto una cosa di energia, di entusiasmo. Poi certo ha anche i suoi lati negativi, per cui appunto magari una disumanizzazione, un po' di così scomodità varie, però secondo me diciamo, quel modello lì sicuramente è vincente. E come lo si, come si può, che cosa accomuna i valori che lei ha citato di questa umanità, di questa popolazione, al di là per esempio del gusto, del successo, del fare i soldi, dell'avere una riuscita professionale, quali sono i valori principali, quelli che li accomunano questi giovani californiani in cerca di successo? Beh, sicuramente l'innovazione, anche l'idea che tutto, diciamo che tutto è migliorabile, tutto è sperimentabile, quindi non prendere nulla per scontato, cercare di scoprire nuove soluzioni, e l'idea che soprattutto pensare in grande anche, cioè una cosa che noi, a cui noi non siamo abituati, no? Perché il nostro essere italiani anche un po' così, non c'è questa idea del pensare in grande, invece l'America e la California se sogni in grande, quindi permettono la creazione anche di queste imprese colossali. Se pensiamo a Elon Musk che va a fare le imprese spaziali, però fa le auto elettriche, persone che nel giro di 20 anni diventano i più ricchi del mondo dal nulla, è una buona dose di entusiasmo, insomma. Ma la California è sentita come qualche cosa di atipico dal resto dell'America? Sì, completamente. In ogni, se ci pensa, in ogni film o libro americano c'è sempre, se c'è un personaggio strambo in una famiglia finisce in California. Non so, nei Sopranos cioè, la figlia vuole andare a studiare in California e Tony Soprano impazzisce, è da sempre una specie di corpo estraneo, è lo stato più ricco, è lo stato più popoloso, è uno stato considerato libertino, no, dagli altri, per cui si parla anche spesso di una, se possibile, scissione, ogni tanto ci sono, così viene fuori dei sondaggi per cui i californiani vorrebbero separarsi, in quel caso sarebbe uno degli stati da solo più ricchi comunque del mondo, però alla fine poi rimangono lì come una specie di Alto Adige americano molto speciale. Mi sbaglio, dal suo libro emerge in fondo uno scarso interesse o un relativo interesse per la politica, diciamo c'è molta appartenenza sì contro Trump, a favore di Trump, però non mi pare che emerga un grande impegno poi per la politica da parte di questa popolazione. Ma in realtà sono molto così, diciamo, a sinistra, sono molto anti-trumpiani anche adesso, sono, diciamo, c'è molta così spinta per andare a votare per evitare una devastante riconferma di Trump. Generalmente sono più libertari, però cioè il vero sentimento politico è non è né, diciamo, né democratico né repubblicano, ma è più libertario, cioè quest'idea che comunque un po' il, diciamo, tutto dovrebbe essere affidato all'individuo più che alla politica. In questo si sentono speciali anche in questo, ecco. E invece c'è tanto interesse, forse più che per la politica, per il cibo, mi pare di capire da leggere il suo libro. Beh sì, una cosa che io non mi aspettavo quando sono andato a vivere lì è che uno ha degli stereotipi sull'America, sul cibo, che ormai non sono proprio più validi, o almeno saranno validi forse nell'America profonda, però ormai la California è un posto dove si mangia mediamente meglio che in Italia, soprattutto un posto dove è nata la cucina biologica, organica, dove c'è una ricerca pazzesca sulle materie prime, dove ci sono i ristoranti tra i più buoni del mondo, c'è anche un po' un'ossessione, no? Perché tutto questo poi si lega alla, diciamo, al benessere, allo sport, quindi è tutto molto sano, è tutto molto, credo che nessuno più beva del latte di mucca da decine di anni. E usi zucchero? Esatto, sì, lo zucchero è una delle cose più, devo dire, una delle cose più divertenti che mi è successo. Un giorno sono andato a bere un caffè con un amico e ho chiesto se voleva lo zucchero e mi ha guardato come se gli avessi offerto della cocaina, perché lo zucchero è considerato proprio un veleno improponibile. Nessuno mai lo userebbe più. Grazie a Michele Masneri, autore di Steve Jobs non abita più qui. Buona serata. Grazie a voi. Un viaggio che ci è stato rimandato è quello a Dubai, dove il 1 ottobre prossimo si sarebbe dovuto aprire l'Expo, che causa Covid è stata rimandata di un anno. Chi ci voglia andare avrà tempo adesso di leggere il libro dell'economista Emanuele Felice, pubblicato dal Mulino, e intitolato Dubai, l'ultima utopia, 222 pagine, 15 euro. Di Dubai anche si è parlato molto nelle scorse settimane per il reciproco riconoscimento diplomatico, un fatto importante e abbastanza inaspettato, tra Israele e gli Emirati Arabi, di cui Dubai fa parte. E anche Dubai, dice Felice, è un modello di un futuro possibile, un po' come la California appunto, fondato sull'ultima utopia, secondo Felice, che ci è rimasta, quella dell'utopia consumistica, della felicità fondata sull'abbondanza. Che però questa felicità ha una faccia oscura e preoccupante, rappresentata secondo l'autore dalla mancanza dei diritti e dalla limitazione delle libertà. Dubai, scrive Felice, è il luogo in cui il capitalismo ha reciso nel modo più netto e persino sfacciato il cordone ombelicale con il liberalismo. E il viaggio di Felice dunque presenta tante riflessioni relative a questo aspetto, riflessioni che partono dal Dubai Mall, una delle mete più battute dai turisti di tutto il mondo. Di Dubai ci viene ricordata la storia, oltre che lo sviluppo prodigioso, la deformazione da utopia a distopia, e soprattutto nel libro viene messo in discussione il futuro nel quale si gioca una scommessa decisiva che contrappone Dubai a Filadelfia, due città delle quali la seconda, quella americana, proclama il diritto alla ricerca della felicità, mentre la prima si proclama essa stessa la città più felice del mondo. Ma da Filadelfia è iniziato un processo lungo, complesso, per affermare i diritti e la libertà. A Dubai, invece, secondo Felice, di questo processo non vediamo ancora le premesse, minacciando con ciò stesso quella dimensione relazionale che è basilare, secondo l'autore, nel discorso sui diritti e sui doveri, che supera nella proposta esclusiva del consumismo edonistica, archiviando l'umanesimo liberale. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Cominciamo adesso un viaggio letterario per l'Italia, partendo da Napoli, che il 19 settembre ricorderà il suo patrone San Gennaro, che troviamo nel titolo di un fortunato libro del Novecento dello scrittore e giornalista napoletano Giuseppe Marotta, vissuto tra il 1902 e il 1963, di cui questo San Gennaro non dice mai no, del 1948, viene riproposto da Alessandro Polidoro, un editore di Napoli, 244 pagine, 16 euro. L'autore, che si era trasferito a Milano per fare il giornalista, e professione che avrebbe esercitato a lungo al Corriere della Sera, ritorna a Napoli dopo la guerra e ci dà della sua città un quadro molto vivo, molto umano, mettendo in luce tutti i problemi e le contraddizioni di un periodo così drammatico, di una città sempre più complessa e affascinante. In quella situazione le difficoltà da affrontare sono tante, e i napoletani sanno farlo con inventiva e con spirito di sopportazione, supportata appunto dalla fiducia in San Gennaro. Quello che Marotta descrive, spiega Alessio Forgione nella prefazione, è la Napoli della miseria diffusa, del contrabbando a forcelle degli americani, dei guappi e degli sfregi. Nella Napoli prima della speculazione edilizia, con sembianze diverse da quelle attuali, e in una Napoli che, come scriveva Marotta, era allora un vicolo solo, un basso solo, una botteguccia sola. Marotta riporta se stesso a casa e riporta la sua opinione a noi. Ed è un'opinione fondamentale, conclude Forgione, struggente, ironica, pesante e leggera. E questo non è uno dei tratti della napoletanità, no? Riuscire a vedere la dolcezza nella bruttura e il dolore nella bellezza? Un altro autentico scrittore da riscoprire è Carlo Coccioli, di cui Lindau sta opportunamente riproponendo l'opera. Coccioli era nato nel maggio di 100 anni fa e è morto nel 2003 a Città del Messico, dove si era trasferito anche in seguito alle polemiche suscitate da un suo romanzo, Fabrizio Lupo, che trattava di un tema che per allora, nel 1952, era tabù, quale la scoperta da parte di un cattolico della propria omosessualità. E la religione svolse un ruolo importante sulla sua evoluzione. Coccioli era nato cattolico, passò all'ebraismo per arrivare all'induismo e al buddismo. E di Coccioli Lindau, dicevo, sta pubblicando i testi più importanti, Il cielo e la terra, 400 pagine, 24 euro, un romanzo pubblicato nel 50 che ebbe un enorme successo in tutto il mondo dalle particolari venature metafisiche, L'erede di Montezuma, 520 pagine, 24 euro, frutto della sua esperienza messicana, straordinaria testimonianza della caduta della civiltà degli Aztechi, ripercorsa nelle parole dell'ultimo re ormai vinto e prigioniero. Uomini in fuga, 392 pagine, 23 euro, dove la fuga è quella nell'alcol e dall'alcol, vissuto attraverso l'esperienza di un gruppo di alcolisti anonimi messicani. Le corde dell'arpa, 184 pagine, 16 euro, romanzo d'amore intenso e insolito che si intreccia con la ricerca attraverso il viaggio in Sud America e in Italia dell'anima dei due protagonisti. E poi due ispirate alla ricerca spirituale di Coccioli, Buddha e il suo glorioso mondo, 232 pagine. Pagine 18 euro e Piccolo Karma, 248 pagine 19 euro. E sentiamo dal cielo alla terra alcune righe nelle quali il protagonista Don Ardito Piccardi espone la sua tormentata visione del cattolicesimo. La società cattolica è una società in cui regna l'assurdo. Fin dal tempo della mia vocazione, ogni volta che ho pensato al Vangelo, l'ho considerato un documento di follia. Ci sono dracme che ne valgono 10. Perché una pazza valutazione delle cose lo esige. C'è chi abbandona 99 pecore per curarsi della centesima che si è persa. C'è un padre che sacrifica la pecora grassa perché torna un figlio che ha dilapidato le sostanze. La medesima pecora grassa che gli non ha sacrificata per il figlio rimastogli fedele. Una vedova dà in elemosina un soldo e il suo soldo vale più delle ingenti somme di un ricco. All'operaio che giunge all'undicesima ora, il proprietario del campo concede lo stesso compenso di quelli giunti all'alba e si dice «amate il vostro nemico», che è una legge da pazzi. Profonda follia, pensando alla quale mi son detto «noi siamo troppo savi per essere veramente cristiani, siamo troppo logici, troppo da bene, teniamo troppo alle misure che ci paiono sapienti, abbiamo una filosofia troppo ragionevole, abbiamo un cervello che discute troppo, non solo siamo attaccati alla logica». Ma in più la riveriamo, le innalziamo monumenti nel nostro cuore e il vitello d'oro. Non ci bagneremo mai di catrame e coperti di piume non saremo mai giullari di Dio. Possiamo accettare tutto da un Dio, ma non che ci imponga di impazzire o di sbottonarci la giacca. Diciamo che è contro natura e continuiamo a vivere in una logica comunità di creature sapienti. Uno scrittore che possiamo accostare in qualche modo a Coccioli è un nostro contemporaneo, Giovanni Lindo Ferretti, che si definisce libero cantore dopo essere stato componente di gruppi musicali celebri quali CCCP, Fedele alla Linea, poi CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, poi ancora PGR per Grazia Ricevuta, che opera nell'ambito della musica sperimentale. Ferretti ha avuto un percorso politico molto contrastato che l'ha portato dall'estrema sinistra a posizioni favorevoli ai partiti di centrodestra, con una costante rappresentata dall'ostilità alle forme estreme del capitalismo e della globalizzazione. Si è riavvicinato al cattolicesimo, si è rifugiato in una località dell'Appennino emiliano e ci dà in Non invano una sintesi della sua visione del mondo. Questo libro è pubblicato da Mondadori, 114 pagine, 17 euro, e la visione non è certo succube delle ultime tendenze. L'avanzata della tecnica, lo sradicamento, la fuga della religione, l'abbandono dell'Italia periferica preoccupano Ferretti, che precisa di non considerarsi un eremita perché è incapace di rinunciare alla socialità. E sentiamo alcune parole dello scrittore che bene sintetizzano le sue preoccupazioni. Sradicare le persone dalla propria storia per farne agenti dello sradicamento è l'imperativo. Una umanità indistinta, intercambiabile, mobile, in uno spazio artificiale a uso e consumo di tecnologie sempre più sofisticate, ma plausibili, in basso, a un utilizzo intuitivo elementare. Invasive dispensatrici di servizi per bisogni indotti che, come ragnatela, avvolgono lo spazio dell'esperienza umana. Un suadente invito a smetterla con i propri piccoli sogni per connetterci tutti al grande sogno che scientificamente si sta allestendo per noi, la nuova umanità. Una visione ironica e sarcastica su tante nuove tendenze, vizi, abitudini, tabù che dominano la nostra epoca e che in qualche misura si può ricollegare anche al libro di Masneri da cui siamo partiti stasera è quella di un altro scrittore dei giorni nostri, Giuseppe Culicchi, autore di E finsero felici e contenti, dizionario delle nostre ipocrisie, pubblicato da Feltrinelli, 232 pagine, 16,50 €. Ispirandosi all'immortale modello del dizionario dei luoghi comuni di Flaubert, Culicchia ci invita col suo dizionario ad affrancarci dalla gigantesca finzione ipocrita, così la chiama, nella quale siamo tutti costantemente immersi, ma che noi stessi alimentiamo con i nostri comportamenti e le nostre idee. Nell'introduzione Culicchia si rifà ad alcuni casi grotteschi e offensivi di censura dettata dalla correttezza politica, come quella che ha colpito Mark Twain, lui che si batté per abolire lo schiavismo, di aver usato la parola negro, allora del tutto normale, e perciò vietato, scrive Culicchia, con grande sprezzo del ridicolo in molte università americane. Ma c'è anche un'ipocrisia condita da fake news che rischia di far perdere qualunque valutazione critica, quale quella che secondo Culicchia occorrerebbe applicare all'analisi sui gilets jaunes, che non sono fatti solo da fascisti o black bloc, scrive, ma anche da signori coi capelli bianchi che appartenevano a una comunità di cittadini che si è sentita tradita dai propri rappresentanti a causa delle crescenti sperequazioni economiche. Culicchia ha scelto perciò 15 argomenti, ognuno dei quali viene aperto da una breve introduzione sviluppata in tante brevissime fulminanti voci. E allora sentiamo dal capitolo sulla società una voce ancora di grande attualità. Che tempo che fa? Se facenti parte dell'ufficio stampa di una casa editrice, mettere in conto che l'autore del libro in uscita pretenderà di andarci, qualsiasi autore, di qualsiasi libro. Cercare di spiegare all'autore che in Italia vengono pubblicati più di 60.000 libri all'anno e che, pur mettendocela tutta, è impossibile convincere Fazio a intervistare i relativi autori, vista anche la durata del programma. Come ultima carta, giocarsi la seguente scusa. Comunque, non fa più vendere come una volta. E dalla voce televisione, una voce che riguarda i libri. Capalbio. Se direttori di giornale ricordarsi ogni estate di far scrivere un articolo su chi ne frequenta oggi la spiaggia, più un approfondimento su chi la frequentava ieri. Rilevare, una volta gli ombrelloni erano rossi, oggi sono blu, ma la politica non c'entra. E infine torniamo alle origini della letteratura italiana con Il copista di Marco Sant'Agata, pubblicato da Guanda, 144 pagine, 16 €. Questa è la cronaca di una giornata della vita di un grandissimo, di Francesco Petrarca. Infatti, Un venerdì di Francesco Petrarca è il sottotitolo del libro riproposto dopo la prima edizione del 2000. Alla quale seguì quella del 2007, un libro che introduce appunto una faticosa giornata, per la precisione quella del 13 ottobre 1368, del poeta ormai anziano, angustiato oltre che dalla morte per la peste del figlio del nipotino, dalla fuga del giovane copista Giovanni Malpaghini. Giovanni aveva lasciato incompleto il lavoro che svolgeva con Petrarca, un lavoro che svolgeva benissimo, quello di copiare in bella copia le poesie che avrebbero poi formato il canzoniere. Petrarca quel giorno, quel 13 ottobre, vorrebbe completare un'epistola rivolta a un fastidioso ammiratore napoletano, al quale tuttavia occorre rispondere con toni all'altezza della fama del poeta. Ma nel corso della giornata il poeta stessa rievocherà un recente incontro con Boccaccio, al quale aveva promesso di completare una canzone che lo stesso Boccaccio aveva interpretata come ispirata alla propria opera. E lo farà, deciderà di farlo proprio quel giorno. Seguiremo nel libro la genesi di quello che conosciamo adesso come standomi un giorno solo alla finestra, che sarebbe il simbolo della perdita della fede da parte di Petrarca, ma che qui nel libro di Sant'Agata diventa l'espressione di questo lavoro dell'artista che definiamo ispirazione. E quindi il racconto, spiega l'autore, diventa il tentativo di cogliere i nessi profondi perciò nascosti che legano ispirazione e biografia. E a questo punto il confettino. Torniamo da dove siamo partiti, cioè in California, con un libro di Guido Fariello pubblicato da Easyaf Books, California, 106 pagine, 18 euro, dove troveremo una vecchia California ancora popolata dagli indiani Wappo, che diventerà lo scenario di un'avventura la cui posta in gioco è l'amore per i libri scritti con il cuore. Prima di lasciarci, ricordo che giovedì scorso è stato sottolineato il 60° anniversario di un episodio tra i più leggendari nello sport e in particolare della 17ª Olimpiade di Roma, che si svolse appunto 60 anni fa, anzi si sarebbe conclusa proprio il giorno dopo, cioè la vittoria della maratona da parte di Abebe Bikila, 28enne caporale etiope della Guardia Regale del Negus, che correrà 42 km 195 metri della maratona in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, correndo, e questo lo ricorderete, è entrato nella leggenda, a piedi nudi. A Cenere rievoca l'impresa Sylvain Cohère, scrittore e sportivo francese, ma è stato anche muratore disoccupato, così si presenta, in Vincere a Roma, l'indimenticabile impresa di Abebe Bikila, pubblicato da 66 and Second, tradotto da Marco La Penna, 136 pagine, 16 euro. E il libro si legge passo passo seguendo l'impresa. I capitoli infatti sono dedicati a blocchi da 5 km della corsa raccontati dall'atleta, che ci restituisce non solo le reazioni del suo corpo, una macchina perfetta, ma anche i sentimenti e la volontà che lo hanno portato a quella prova straordinaria che lo farà entrare appunto nella leggenda. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.